America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Musical meraviglioso, The Book of Mormon, il musical che in questo momento ha più successo in America, più successo qui a New York. Impossibile trovare biglietti almeno per i prossimi 6 mesi. È la storia di 2 ragazzi, di 2 giovani mormoni che partono per la loro tradizionale missione in cui devono fare proseliti. This evangelical thinks that being a Mormon should not disqualify a person from running for president. And actually the irony here is that one of the problems that Mitt Romney's having with evangelical voters is that perhaps he's not Mormon enough on the issues that matter most to them. Questo invece è Richard Land, un pastore, un predicatore evangelico, uno dei più importanti, il quale dice in questa sua dichiarazione alla televisione che tutto sommato, un presidente mormone potrebbe anche starci, perché no? Basta che non parli troppo della sua religione, come del resto John Kennedy dice, non parlò molto del fatto che lui era cattolico. La religione dei mormoni, devo dire, quest'anno in America straripa. Il musical che vi ho fatto sentire è il più grande successo a Broadway. In questa campagna elettorale ci sono 2 candidati mormoni nel Partito Repubblicano, Mitt Romney e John Huntsman. E la lente di ingrandimento è su questa religione, che è quella che sta crescendo più rapidamente in America. Ho scelto una dichiarazione di Richard Land perché sarà il capo di una congregazione, di una riunione di circa 150 pastori evangelici che si riuniranno per una conferenza a Houston. La domanda di fondo su cui oggi tutti si interrogano: che cosa verrà fuori da questa conferenza? Una conferenza che ha un tono politico. L'idea è che possa esserci un endorsement, la sottoscrizione di una candidatura. Che cos'è questa religione dei mormoni? È una religione molto particolare, intanto una religione americana, perché viene fondata dal signor Joseph Smith, il quale ha un'apparizione notturna, un angelo gli si presenta e gli dice: guarda che tu devi andare a trovare questo libro, il libro dei mormoni, la tribù perduta, ed è uno dei libri sacri che non esistono più, bisogna ravvivare questa religione. Il signor Smith va a cercare questo libro, lo trova, è un libro scritto su pagine d'oro, lui riesce a decifrarlo, lo copia a mano durante una notte di corsa, frenetico, dopodiché deve restituire questo libro all'angelo che glielo aveva fatto avere appunto in apparizione. E la storia qual è? È un'altra Genesi, un'altra storia biblica, è la storia di un esodo, di un popolo che nel 600 a.C. lasciò la terra di Israele, una delle tribù di Israele, una delle tribù di Abramo, del popolo ebraico, che lasciò Israele su indicazione del Signore e emigrò dove? Emigrò in America. Poi questa tribù, arrivando in America, si dimenticò delle sue origini e quindi la missione di Joseph Smith è stata quella di restituire, dopo alcune migliaia di anni, la radice, la consapevolezza di questa religione perduta, approdata e rinata in America. Ecco, ho con me ai microfoni di America 24 Christian Rocca, che era con me a Salem, abbiamo seguito la campagna elettorale, abbiamo visto questi 2 mormoni in azione. Dopodiché c'è una grande sostanza in questa religione, perché devo dire è la religione che sta crescendo di più in America. Ma è anche perché è la prima vera religione americana, nata appunto, tu hai raccontato la storia di Joseph Smith, nata a Upstate New York. Sì, qua vicino tra l'altro. Sì. Che non è proprio, diciamo, the promised land. No? Sì. The promised land. Comunque, dal punto di vista di un giornalista che segue la campagna elettorale, questa cosa dei mormoni è molto noiosa. Perché Romney, che è il candidato, diciamo, probabilmente vittorioso di questa stagione delle primarie, è non ha amanti, non ha vizi, non beve neanche il caffè, e quindi ovviamente noi giornalisti siamo alla ricerca sempre di un altro, di un'alternativa a Romney, perché lui non ci fa divertire come Clinton, non mangia l'hamburger con il formaggio che gli cola e così via, è proprio perfetto. E questa secondo me è una cosa fondamentale rispetto al problema religioso e del mormonismo nel Partito Repubblicano. Perché? Perché è vero che lui non è cristiano, non è evangelico, non è nemmeno cattolico come Santorum, però è anche vero che in quanto mormone ha un codice morale che tutto sommato è condivisibile dalla destra religiosa. E questa Richard Land, che tu hai fatto ascoltare, dice una cosa addirittura all'opposta. Dice: il problema di Romney è che forse non è sufficientemente mormone, perché sulle cose che a loro interessano, per esempio l'aborto, i mormoni hanno la stessa posizione identica degli evangelici, solo che Romney in passato non è stato sufficientemente mormone, perché appunto è stato pro-choice e a favore dell'aborto. In questa riunione, secondo te, ci sarà un endorsement di Romney? È difficile da questo prevederlo, perché fino a 2-3 settimane fa, anche un mese fa, era certo che questa riunione, questa convention in Texas, dovesse trovare l'anti-Romney, dovesse unificare gli sforzi della destra religiosa intorno a un candidato. Il problema è che l'Iowa e il New Hampshire hanno, come dire, non hanno fatto venire fuori un'alternativa a Romney. Tutte le altre alternative, compresa quella di Santorum, si sono, diciamo, sbriciolate alla prova dei fatti dei seggi. Quindi adesso quelli che all'interno del mondo della destra religiosa sono a favore di Romney ovviamente hanno degli argomenti in più a suo favore. E l'argomento principale è quello che alla fine, l'obiettivo finale, è sconfiggere Barack Obama, e quindi il dato dell'eleggibilità, della forza di Romney, potrebbe far breccia anche nel mondo religioso. South Carolina, uno stato al 60% fatto di cristiani evangelici, si diceva che il Sud fosse contro Romney proprio per questa caratterizzazione cristiano-evangelica. Sappiamo che Romney sta vincendo anche nella Carolina del Sud. Cosa significherà essere mormoni in una campagna nazionale? Ma Mario, 4 anni fa, ti ricordo, vinse alle primarie repubblicane John McCain, cioè che non solo non era un evangelico, ma era anche uno che aveva attaccato nella precedente ancora campagna elettorale il mondo evangelico. Quindi quella South Carolina è un posto molto composito, ci sono anche le basi militari, ci sono le famiglie militari, quindi non è detto che uno debba essere necessariamente uno che si inginocchia tutti i giorni in chiesa come Tim Tebow, la star del football americano. Se immaginiamo il confronto nazionale tra Barack Obama e Mitt Romney, io credo che la religione non avrà un ruolo centrale, perché Obama è religioso, frequentava la chiesa, aveva nel passato la storia famosa del reverendo Wright, però è un laico, non ha questo tema. E Romney, tutto sommato, è una versione di destra di Obama, è un Al Gore repubblicano, è un tecnocrate repubblicano che non ha nessun interesse e non è proprio nelle sue corde avere quell'argomento da usare in campagna elettorale contro il presidente. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre alla nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Quest'anno sarà Kelly Clarkson, rivelazione prima vincitrice del talent show americano American Idol nel 2002, a intonare l'inno nazionale durante il Super Bowl il prossimo 5 febbraio, di Kelly Clarkson, Mr. Know It All. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.